Ok, sì. Ci sentiamo? Sì, ci sentiamo. Sentiamo. Tra l'altro, come primo pezzo del tappeto musicale è partito da Radio ZM in maniera totalmente a caso, dalle le quattro stagioni di Vivaldi, per dire. Cioè, così. Wow. Totalmente a caso. Vabbè, invece no, scusate, perché noi siamo qua che chiacchieriamo da un po' per abituarci ai microfoni, ma siccome invece il podcast parte da qui, o perlomeno parte con Testify dei Rage Against the Machine, se dobbiamo dirla tutta. Senti che accompagnamento musicale, non male. Sono estasiato. I prossimi andranno a caso altrettanto. Mi pare che è l'inverno, perché tra l'altro, di Vivaldi. Esattamente, wow. Esattamente. E invece il caso ci regala queste. Il caso ci regala questo inizio. Esatto. E quindi noi, alle persone che hanno iniziato ad ascoltare il nostro podcast con i Rage Against the Machine, diamo il nostro benvenuto. Intanto siamo su Radio ZM, oggi è il 19.05, alle 19.05, no non è vero, sono le 19.23, e siamo qui in diretta con due pezzi di cuore degli ultimi 15 anni, il buon Fulvione e il buon Emanuele, direttamente da rispettivamente CSA Baraonda e Marxpedia.org. E siamo qui per presentare un loro contributo che stava girando nelle ultime settimane e che insomma ha bisogno di un po' di agio per essere approfondito, ma prima di tutto ben arrivati. Ma grazie a te, si dice, no? Nelle trasmissioni radio, grazie di essere qui, grazie a te. Sì, certo. Poi ce lo facciamo anche sovrapponendoci, vedi che è più bello. Agli amici a casa. Grazie agli amici a casa. Esatto, grazie a Zamba. Che uno sogna sempre, esatto, di dire almeno una volta, esatto, nella vita. Grazie agli amici a casa. A tutti i radioascoltatori, esatto. Grazie a Zamba. Tra l'altro possiamo, sì, ogni tanto qua sbarella, ma è tutto tranquillo. E, tra l'altro possiamo dirlo agli ascoltatori in diretta e agli ascoltatori in podcast, quindi praticamente moltiplichiamo i ringraziamenti. Splendido. Avete qualche altro ringraziamento da fare? No. Grazie a Zam che ci ospita, questo esperimento non l'abbiamo mai fatto e quindi siamo novità assoluta. Divertiti, eccitati e molto interessati. Io ne sono assolutamente entusiasta e io direi che senza tergiversare oltre. Ti piace cos'altro tergiversare? Guarda, bello. Sono estasiato. Bello, bello, bello. Estasiato? Sì, mi piace molto, estasiato. Non ho ancora sentito iniquo, ma spero di sentirlo prossimo. Assolutamente no, ma sarà un festival. Siamo appena all'inizio. No, siamo appena all'inizio e ci saranno un sacco di termini. Sentiremo dalle belle. Ci saranno un sacco di termini desueti. Desueti, perfetto. Allora, obsolescenti direi quasi. Assolutamente. Quasi, bellissimo. E, niente, allora, noi presentiamo quest'oggi un documento che si chiama Combatti oggi il fascismo di domani, che è uscito in questo formato a tre pieghevole, bellissimo, anche bello da avere in mano, insomma bello il cartaceo in questo periodo di tutto online che salva il pianeta ma fino a un certo punto. E quindi la prima domanda ovviamente che non posso che farvi è, visto che è un lavoro scritto a più mani e a più collettivi, in particolare a due collettivi, un po' volevo chiedervi come nasce la volontà, quando, come nasce la volontà di scrivere insieme questa cosa e come mai. Questa è la prima domanda. Ok, beh, domanda che ben volentieri mi accollo io, perché insomma la cosa viene un po', e lo dico con orgoglio, dal CSA Baraonda. Ma guarda, secondo me, Chiara, è interessante fare un passo indietro, cioè come nasce e perché nasce la collaborazione, insomma adesso ancora acerba ma con una strada davanti a sé tra il Baraonda e Marxpedia. Acerba, insomma. Sì, beh, qualcosina abbiamo fatto, qualcosina abbiamo in cantiere e secondo me è importante ragionare, fare un ragionamento un po' su questo, no? E su questo mi viene un po' da partire dalla vostra Antifa Fest, dove abbiamo partecipato sia noi del Baraonda, sia i compagni di Marxpedia, e dove in varie forme, in vari modi si è parlato di comunità, no? E come uno dei punti centrali anche del nostro agire politico, del nostro sviluppo politico. E comunità, cosa sono le comunità, come si generano le comunità? Io credo che le comunità siano un'intersezione, no? Un'intersezione di lotte e di pratiche differenti. dove però il cappello comune debba essere quello della lotta di classe, no? Facciamo tutti parte di una classe, ci riconosciamo in una classe, che è la classe degli sfruttati, degli oppressi, ma anche la classe di coloro che producono. Che producono i beni e che producono la ricchezza, che poi si ciucciano quelli dell'altra classe. Che poi le classi sono due, per cui o stai di qua o stai di là. Esatto, non è che sono tante. Nel mezzo non puoi nel stare. Nel mezzo ti divorano, di solito. Possono cambiare le pratiche, ma nel mezzo... Esatto. Chiudi il negozio. Chiudi il negozio. Chiudi il negozio. Esatto. Quindi, cioè, come dire, allora, sia noi del Baraonda, sia i compagni Marspedia abbiamo ben chiara questa cosa. Ci riconosciamo nella classe degli sfruttati e agiamo all'interno della classe con pratiche differenti, no? Il Baraonda è un centro sociale, quindi fa tutto quello che un centro sociale fa: il radicamento territoriale, i dibattiti politici, le presentazioni dei libri, i concerti, la palestra popolare. Abbiamo fatto una brigata durante il periodo della pandemia. Marspedia, adesso poi Emanuele, insomma, dice cosa fa Marspedia. Ce lo dice Emanuele. Ah, così? Come se fosse un'interrogazione. Vediamo se lo sai. Non mi coglie impreparato, sai. Siamo una redazione online nata qualche anno fa, perché effettivamente ci siamo resi conto che da una parte c'era una nuova generazione di giovani, anche di lavoratori, che si stavano radicalizzando e quindi anche interessando alla teoria del marxismo, che però in rete viene molto spesso ridotta in due grandi campi: o è quella già organizzata in organizzazioni esistenti, quindi interpretata in un certo modo, oppure in grandi archivi di articoli che però non sono commentati, non sono introdotti per davvero. E siamo nati così, volevamo raccontare un po', volevamo cercare di spiegare nel XXI secolo gli aspetti centrali di un testo magari scritto nel 1849. Quindi noi siamo innanzitutto scrittori e, se vogliamo, anche un po' divulgatori del marxismo. Però non si può vivere di scrittura, non si può vivere di divulgazione, non in senso materiale, ma dal punto di vista dell'intervento politico, e quindi cerchiamo collaborazioni con spazi sociali. Non si può vivere di radicamento territoriale, per quanto no. Chiaramente noi si faccia un ragionamento politico durante i nostri collettivi, durante le nostre assemblee, però non si può vivere ovviamente solo di quello, e allora ecco che l'integrazione di pratiche differenti diventa crescita comune e diventa la possibilità di costituire quelle comunità resistenti, no? Di cui i compagni e le compagne di Zamma diffusamente hanno parlato durante l'Antifa Fest. E inoltre danno la possibilità di uscire dall'isolamento. Ecco, io credo che questo sia un tema, almeno sulla città di Milano, fondamentale. Dal 2015 a oggi, dal disastro, insomma, diciamolo, no? della gestione anche politica di quella che è stata l'opposizione all'Expo 2015, mi accollo tutta la responsabilità di questa affermazione, i vari spazi, le varie realtà, le varie organizzazioni politiche hanno teso a isolarsi, a chiudersi all'interno delle proprie mura. Si parlava di resilienza prima, quando il podcast ancora non era acceso, no? Però, come dire, ad assumere un atteggiamento di resistenza passiva, in un certo qual modo. Oggi io credo che serva il più possibile riattivare percorsi di collaborazione anche tra realtà che fanno politica in forma differente, per uscire dall'isolamento e provare a ricostruire, se non un attacco al cielo, quantomeno una resistenza. Tra l'altro, e quindi una resistenza attiva. L'argomento della chiacchierata di oggi è un settore di lavoratori che per la prima volta va in avanti e lotta in avanti, che fa mobilitazioni, certo, per guadagnare, per conquistare e non va indietro, che è un insegnamento anche per gli spazi della città, se sì, vogliamo. Sì, forse non è neanche un caso, tutto sommato. No, certamente nel senso no. Che alla fine tutto sommato è anche un po' l'incentivo, nel senso, fermo restando che ovviamente ogni occasione è ben vista, poi quando si sente un po' anche un po' quell'anelito a spingere un pochino di più, questa cosa diventa anche contagiosa, quindi in realtà ovviamente a sua volta io come dire mi aggancio a questo ho sentito i fremiti dietro questa collaborazione e ho detto mi aggancio anch'io, quindi, wow. ed eccomi qui ad interrompervi quando parlo. Non è casuale che oggi parliamo di lotta di classe nel vero senso della parola, tra l'altro in un settore, la logistica, con una grandissima espansione, perché in Italia si produce sempre meno ma si distribuisce sempre di più e c'è un settore di forza lavoro prevalentemente migrante. Utilizziamo un vecchio termine desueto, immigrata, perché come dire non sono turisti questi che sono venuti in Italia, ma ecco, bravo, a me piace molto scappati, questa puntualizzazione, sono scappati dalle miserie del capitalismo nei loro continenti per venire alle miserie del capitalismo occidentale qui in Italia, e però complice anche il lavoro pionieristico di alcuni sindacati di base, uno in particolare, noi l'abbiamo citato, il SICOBA, si fa riconosciuto effettivamente un lavoro veramente pionieristico in questo settore di lavoratori immigrati è fresco, combattivo, e ha preso in mano e impugnato una mobilitazione in tantissimi settori, in particolare la logistica ma anche la grande distribuzione, che è diventata protagonista per molto tempo. E in autunno ha avuto una grande stagione, un grande exploit, ma oramai sono diversi anni che c'è questo, e naturalmente in un settore dove lo sfruttamento è massimo, perché per tenere i margini alti devi avere uno sfruttamento ad altissimi livelli, nemmeno rivendicare di avere l'applicazione del contratto nazionale può essere tollerato, e si usa ogni mezzo sporco possibile. E anche lì c'è un isolamento, no? Quindi grandi scatti in avanti che vengono posti dalle lotte concrete, contingenti sui posti di lavoro, e poi un grande isolamento. Ecco, io mi sento di dire, la collaborazione tra le nostre realtà parte da questo, no? Rompere un po' questa, diciamo, una serie di tabù, una serie di isolamenti reciproci, e il lavoro dell'opuscolo che è stato poi pubblicato nasce in seno, diciamo, alla commemorazione del 19° anniversario dell'uccisione di Dax, certo, che è stata un po' dedicata, diciamo, alle questioni appunto sul lavoro. E quindi dal momento che la nostra collaborazione era già in essere, ci siamo detti, cavoli, interveniamo insieme, è l'occasione, no? Esatto, è l'occasione per uscire insieme con qualcosa di scritto, da distribuire, da far girare nella città tra i compagni e le compagne, ma anche appunto nella città nel momento in cui ci affacciamo fuori dai nostri spazi. E da lì è nato il ragionamento a partire dalle cose che diceva prima Emanuele, quindi quali sono oggi le soggettività in lotta. Fulvio mi ha chiamato e mi ha detto: sprangano i lavoratori in sciopero, è fascismo? E io gli ho detto: forse sì, e forse è già quello di domani. E il movimento che fa? E allora ci siamo incontrati, abbiamo avuto una discussione su questo, abbiamo steso una bozza, l'abbiamo limata, l'abbiamo creata nell'ambito per portarla al contributo dell'Antifa Fest. Questa è la genesi di questo piccolo lavoro. Che è ottima e piena di suggestioni. Io ne butto giù una soltanto, che al di là ovviamente del grosso lavoro che avete fatto voi nello specifico a comporlo poi e a fare veramente questo esercizio, effettivamente anche quanto alla fine tutto sommato alcune cose che vengono buttate lì sono così fondamentali, poi nel senso che anche una ricorrenza che evidentemente ci vede tutti gli anni coinvolti, che è quella che veniva citata prima, del 16 di marzo, come dire, veramente l'idea di attualizzarla ogni anno, al di là, cioè non è un feticcio per dire che stiamo parlando sempre a persone diverse, ma è, come dire, veramente l'occasione per fare un esercizio anche di costruzione politica. E come dire, penso che noi alle volte magari andiamo un po' in loop e diamo un pochino tutto per assodato, comunque ci rigiochiamo sugli schemi classici, e quindi, come dire, la memoria non è morta, è una questione di tutti i giorni e quindi va attualizzato, e ok, lo facciamo ad ogni giro, e in realtà lo facciamo ad ogni giro, tutto sommato c'è veramente un motivo per farlo, ed è un bene che continuiamo a farlo anche entrando, come dire, nel un po' nel meccanismo del solito, uscire comunque anche dalle, nel senso, anche pure nelle stesse pratiche, che alla fine non sono cambiate più di tanto, rimettersi come se fosse ogni volta il primo giro, so come dire. Certo. E lo dico a maggior ragione perché questo spero che non lo sappia nessuno, perché con le nostre voci giovanilissimi ci darete 17-18 anni massimo, ma effettivamente io e i due qui presenti ci conosciamo da un bel po', e quindi è anche bello perché effettivamente anche oggi, nonostante veramente 15 anni è lo oramai spoiler, ci conosciamo praticamente da 15 anni, e ciò non di meno oggi è un po' come una delle prime cose, no? Cioè è sempre un po' divertente, e quindi alla fine mi piace che si rimanga un pochino questo spirito curioso. Devo dire che, se posso aggiungere una cosa a quello che dicevi tu adesso, quando abbiamo cominciato a scrivere la bozza che volevamo discutere insieme al Baraonda, ci siamo posti un problema. Effettivamente nella stampa, soprattutto nella sinistra più moderata, si usa fascismo per qualsiasi cosa. Quello è un altro problema, onestamente. Salvini dice una cazzata, è fascismo, e si confondono tantissimi piani, e quindi alle volte si perde anche un po' quel senso della parola che si usa, e quindi abbiamo dovuto fare un po' di surf, diciamo, tra la minaccia, perché effettivamente sprangano i lavoratori davanti ai picchetti, e contemporaneamente il fatto che davanti a quei cancelli non ci sono organizzazioni di estrema destra, quindi come si sposano le due cose, e allora abbiamo dovuto provare a condensare questo. Ma infatti io a questo punto coglierei la palla al balzo, se Fulvio non ha niente da aggiungere, vai, invece passare alla seconda domanda, che in realtà stiamo un pochino anticipando, ma che secondo me invece va un po' più esplorata nel dettaglio, che è un po' avete fatto più volte riferimento, no, a quelle che erano un po' le condizioni iniziali che vanno spinto in questa direzione. Effettivamente parecchie ne sono girate, qualcuna meno, ma secondo me fa bene a tutti fare un attimo di momento di riepilogo su qual è la cronologia, anche un po' degli ultimi periodi, nel senso che nel documento ne vengono citati parecchie, fra, come dire, aggressioni, scontri con diverse persone coinvolte. In realtà alcune rimangono fuori per questi, insomma, citarle tutte ovviamente è impossibile, però alcune rimangono fuori anche perché sono veramente recenti, ma evidentemente raccontano un pochino lo stesso fenomeno, e quindi a questo punto chiederei, come dire, uno stato dell'arte dell'ultimo periodo, quantomeno, se c'è stata un'escalation. È essenziale, la prendo. Vai, grazie, come sei gentile. È essenziale, però è anche essenziale fare una premessa: la stampa ne parla poco quando ci sono questi scontri. Spesso viene dipinto come quando venne ammazzato Dax, e la stampa di fatto dipinse l'omicidio come una guerra tra bande. Fondamentalmente così, quando avvengono questi scontri, molto spesso la stampa, soprattutto quella industriale naturalmente, la dipinge come risse tra lavoratori, tra dipendenti stessi del capannone della fabbrica, cercano di depoliticizzare qualsiasi genere di aggressione. Partiamo, scusa, col dire che la stampa proprio delle lotte operaie non parla, cioè completamente, se non quando è costretta, per esempio, quindi quando ci sono episodi, certo, come dire, che mettono la stessa stampa all'angolo, e quindi non può che parlarne, però sì, a quel punto la derubrica tra lavoratori. Diciamo che nessuno avrebbe mai saputo, sentito parlare della mobilitazione, che so, dei lavoratori della Texprint di Prato, se non ci fossero state delle aggressioni, di cui magari tra poco dico. Però tutti sono venuti a sapere della mobilitazione degli operai di CKN perché il fondo Melrose li ha licenziati con un messaggio, con una mail, e loro hanno fatto una mobilitazione di massa. Sono una grande azienda, quindi sono tanti anche i numeri, sono 300 lavoratori e passa, e quindi hanno fatto una mobilitazione di massa organizzata, e allora la stampa lì è costretta, e nonostante tutto cerca di attuare qualsiasi distorsione di marginalizzazione, ma è costretta. Ma il problema è che, come dicevo, qui c'è un settore, quello della logistica, nella quale vi è una pioneristica lotta di classe, nel vero senso della parola, di settori che sono freschi di sindacalizzazione, che non hanno nemmeno mai perso, e le aggressioni, se proviamo a fare una cronologia delle principali aggressioni, quelli che è possibile reperire sulla stampa, che non è per niente facile, si concentrano quasi tutte nel periodo recente. Nel senso che arrivò agli onori della cronaca, noi non lo citiamo nel nostro testo, però il pestaggio di Fabio Zerbini, che è noto sindacalista, in questo momento credo al Solcobas, quartiere Afori a Milano nell'autunno del 2014, nel pieno di una vertenza, credo fosse all'Orto Mercato, e fu la prima volta, con la scusa tra l'altro di una conciliazione automobilistica, per intendere, ma fu in realtà un pestaggio organizzato, e fu il primo. Ma poi, quando il Sicobas ha, e non solo lui credo, ha cominciato a fare un lavoro di radicamento nel settore della logistica, abbiamo visto una progressiva impennata, e con i metodi più sporchi, perché essendo mobilitazioni isolate, come veniva detto, evidentemente non c'era la necessità di mobilitare delle truppe organizzate o anche le organizzazioni di estrema destra. È per questo che noi diciamo, da questo punto di vista non è ancora il fascismo, ma è soltanto una cosa che allude a quello che potrebbe essere, è il fascismo di domani che va combattuto oggi. Perché già nel 2016 un lavoratore delegato di punta della SDA di Stezzano viene raggiunto a casa il 25 aprile, si chiama Khalil El Kaim, e viene raggiunto a casa nel cortile di casa sua e picchiato, ed eravamo in piena vertenza sindacale, in piena mobilitazione. Questo per darvi un'idea. Poi, che è un'altra cosa che è particolare, dal 2016 a praticamente 2020-2021 ci sono solo piccoli episodi. Una, mi preme citarla perché è molto particolare, e quella sì arrivò sul Corriere della Sera, ma per un motivo che non è legato al pestaggio, è la mobilitazione alla DHL di Settala. Anche qui vediamo sempre, no? Vediamo sempre la logistica in primo piano. Nel marzo del 2015 un picchetto duro, una lotta durissima, l'azienda denuncia i lavoratori, il Corriere della Sera riporta la sentenza del giudice della Tribunale di Milano, Alberto Carboni, che alla fine condanna 4 sindacalisti e 5 lavoratori, nonostante la procura avesse chiesto l'archiviazione, perché il picchetto viene considerato violenza morale. E che crea un precedente, non era mai successo. Cioè, non era mai successo da quel periodo lì, quello che noi chiamiamo ventennio. Non era mai successo, e crea un precedente. E chiaramente poi, con la crisi economica, con la pandemia, con la crisi che dal 2008, dalla crisi dei mutui subprime in poi, si è attorcigliata ed in realtà non è mai uscita, è diventata una crisi sistemica, la globalizzazione è diventata crisi sistemica del capitalismo, abbiamo visto nella logistica e nella distribuzione in Italia scaricarsi le punte più alte di lotta di classe. E quindi, per procedere con la cronologia, è incredibile. Scusa, ma ti interrompo solo per dire che tra le altre cose è interessante e si lega alla questione del fascismo come la giustizia, no? La giustizia borghese, la giustizia di classe, eccetera, utilizzi poi delle norme fasciste, a volte capita, no? per mettere alle corde il movimento dei lavoratori, quindi dalla devastazione e saccheggio, per dire, no? Famosissima legge codice Rocco, eccetera, fino alla violenza morale per un picchetto. Sicuramente c'è molta resistenza ad abbandonare alcune di queste, come dire, di questi reati, certo, di questi resistenza reati, funzionale, perché, esattamente, perché in ogni caso, come dire, hanno sì una vera funzionalità. Dalla primavera del 2021 scoppia una mobilitazione in TNT, per esempio a San Giuliano, dove vediamo un caso peculiare che si ripeterà spesso: l'utilizzo delle guardie private per sfondare i picchetti delle aziende private che vengono mandate dalla proprietà, con veri e propri pistaggi. Anche qui di video ce ne sono tanti, Fanpage, Fatto Quotidiano, di cronaca, che mostrano questi tentativi, e in questo caso, cosa curiosa, con le forze dell'ordine spesso praticamente immobili, cioè non si tratta dell'utilizzo delle forze dell'ordine per portare via fisicamente i lavoratori dal picchetto. Sì, no, alcuni video sono abbastanza impressionanti, nel senso che ci sono veramente persone che vengono massacrate in mezzo alla strada e di fianco un capannello di polizia o di carabinieri immobili. Assolutamente. Che vengono sollecitati da entrambe le parti, tra l'altro, e rimangono fermi lì ad attendere. Con l'estate dello scorso anno, quindi praticamente da giugno in poi, questa situazione letteralmente si moltiplica. A Lodi, Tavazzano, i magazzini del Zampieri, che poi di fatto sono una succursale della FedEx TNT, vedono ancora una volta l'utilizzo di guardie private con armi anche improprie, tra virgolette, sfondare picchetti operai, pestarli, prendere a calci i lavoratori, spesso sono lavoratori immigrati, ed è un copione che si ripete ed è difficilmente prevedibile. Per esempio, abbiamo citato prima il caso di GKN, lì non ci sono state aggressioni, però quando i lavoratori hanno occupato la fabbrica c'erano le guardie private, e le guardie private comunque sono state in giro attorno allo stabilimento per diverso tempo, cosa che solo di per sé crea tensione, naturalmente, perché non c'era alcun motivo che fossero lì, finché si arriva all'apice, che è il 18 giugno del 2021, dove viene ucciso Adil Belakdim, viene ucciso, una mobilitazione, siamo a Briandriate, ai magazzini Lidl, e la mobilitazione è al culmine. Stiamo parlando di una mobilitazione per la neanche per il raggiungimento per l'accettazione del contratto collettivo di lavoro, ma per il suo rispetto, la sua applicazione. Un picchetto che blocca i cancelli di questo magazzino, la coda di tir davanti ai magazzini che preme per entrare, e alla fine un tir che cerca di sfondare il picchetto e ne muore un lavoratore. Non accadeva da molto tempo in Italia, non accadeva da decenni che un operaio morisse durante la lotta. È una cosa che vi dà l'idea del vertice dello scontro. E anche qui naturalmente la stampa, come succede spesso per le morti bianche, parla di tragica fatalità, incidente derubrica a cronaca. Si raggiunge un apice in questa situazione a Prato, dove tra l'altro adesso abbiamo una nuova esplosione di mobilitazioni, sempre nel giugno, tra il giugno e luglio del 2021, alla TechSprint e la Dribbled. Qui noi vediamo un caso molto particolare, perché davanti a questi magazzini escono alcuni lavoratori, tra i più sfruttati, naturalmente sono immigrati anche loro, spesso magari cinesi, oppure anche, credo che fossero cinesi nel caso della Dreamland, ma tra i più sfruttati, tra i più ricattati, soprattutto dei caporali di questi magazzini, che escono con mattoni e bastoni per aggredire i lavoratori in sciopero. E anche in questo caso ci sono i video della stampa, che pubblica Fatto Quotidiano, pubblica Fanpage, quello che si può trovare in rete, dove si vedono alcuni attivisti delegati sindacali, attivisti sindacali del SICOBAS, che è maggioritario in queste lotte, che si appellano alle forze dell'ordine perché intervengano per fermare questi pestaggi, e loro di fatto rimangono fermi. Quello che si vede dai video è che non vi è alcun intervento, e non mi risulta, in tutta la cronologia che noi abbiamo ricostruito per produrre questo nostro materiale, che ci sia mai stato un fermo di pulizia tra gli aggressori di questi picchetti. E questo mentre è fra i picchettanti. Ah, ma ci vuole veramente poco, sai. Noi non abbiamo inserito, anche se in un contesto leggermente differente, però ne vale veramente la pena, il fatto che noi abbiamo un'altra abbiamo avuto poi nell'ottobre 2021. Ed è il mio ultimo penultimo passaggio di questa cronologia, un passaggio però importante e decisivo di cui tutto sommato si è discusso veramente poco, che è la devastazione della Camera del Lavoro di Roma durante la manifestazione a ottobre, che è stata fatta con una fortissima, pare fosse una manifestazione Novax, con una fortissima infiltrazione di organizzazioni di estrema destra, su cui adesso credo che la procura stia indagando, forse ha fatto delle condanne, non saprei, ma quella devastazione è stata emblematica, perché quello sì non accadeva dagli anni 20, quello non accadeva dal ventennio. E lì è peculiare perché noi, ma lo introduco, diciamo, lo accenno soltanto adesso, ma magari ne chiacchieriamo tra poco. È peculiare perché la risposta della CGIL è stata fortissima il sabato successivo, ma lo dobbiamo dire proprio chiaramente, vergognosamente non è stato convocato alcuno sciopero. Nessuno sciopero. Nessuno sciopero. Una manifestazione di massa, decine di pullman che arrivano a Roma, organizzati neanche 48 ore, a dimostrazione della forza che il movimento operaio avrebbe. E senza neanche un'ora di sciopero. Senza nemmeno un'ora di sciopero. L'ultima cosa, c'era bisogno di un'altra dimostrazione oltre che la forza. L'ultima cosa la voglio dire perché è proprio cronaca dei giorni nostri, però è indicativa del copione, e la rivediamo. Siamo ancora a Prato ed è quella che la stampa locale ha rinominato la rivolta delle grucce, perché riguarda quattro principali aziende. Prato è, come dire, il luogo designato del tessile in Italia, dove lo sfruttamento della manodopera, soprattutto immigrata, è altissima. I margini sono altissimi su un prodotto che ha pochissima tecnologia. I vestiti hanno pochissima tecnologia. È quello che, per utilizzare, siamo Marxpedia, per utilizzare una vecchia categoria marxista, a basso contenuto. Vai, dillo. Si dice, si può dillo, dire? Dillo, si può dillo, dire. Dillo. È a basso contenuto organico di capitale. Che fremito. Ripetilo. Basso contenuto organico di capitale. Capito. Che fremito. Capito. Sono quattro, quattro aziende. La DG Meta, diceva la stampa, Riventex, Gruce Creation, e un lavoratore pakistano è stato inseguito da un'automobile con a bordo quattro loschi individui armati di bastoni e minacciato. Io credo che sia solo l'inizio, perché se questi scioperi vanno avanti, e gli scioperi sono stati convocati, uno, per l'applicazione del contratto nazionale di lavoro e per la riduzione degli orari di lavoro, perché noi stiamo parlando di 7 giorni su 7, anche 12 ore al giorno di lavoro in queste aziende. Se andrà avanti, è fin troppo facile fare la Cassandra e capire che ci saranno altre aggressioni. E quindi a noi consegna questa situazione un momento di riflessione, ma anche di azione, che secondo me va considerato. E questo, secondo me, a grandi linee è il quadro. Qui c'è anche un bel po' di più di quello che abbiamo scritto, ed è il quadro complessivo delle aggressioni, e sono comunque le principali. perché non abbiamo parlato di Ortomercato di Milano, non abbiamo parlato, sono comunque le principali. Ma sì, infatti in realtà l'elenco è ancora più lungo e effettivamente ci limitiamo tra l'altro veramente a un periodo mediamente breve, nel senso che poi l'addensarsi di questi... È recente. Esatto, nel senso che poi l'addensarsi di queste... come dire, di queste date e di queste situazioni di cui abbiamo parlato sono in realtà probabilmente comunque abbastanza alte, immagino, durante il contesto pandemico per svariati altri motivi, e probabilmente andando indietro, come dire, se è vero che quest'ultima parte ha registrato forse un crescendo della non fosse altro della lotta in termini di rivendicazioni e quindi poi di mobilitazione, ma sicuramente, come dire, se è vero quello che abbiamo appena detto rispetto al fatto che le cronache sono mediamente carenti, probabilmente c'è anche un sommerso non indifferente in quello che stiamo raccontando. E non ultimo, ma lo cito fra gli altri, posto che non rientra esattamente in questo contesto, ma rientra sicuramente in un contesto anche di provocazioni ai sindacati di base, che sono quelli che stanno animando un po' tutta questa resistenza, quello che era successo all'USB recentemente, quindi certo. L'intervento delle forze dell'ordine alla ricerca di armi nella sede principale dell'USB. Chi non le nasconde nel cesso? Certo, delle certo, armi. Ovvio. Che non si diverte a nascondere una rivoltella nello sciacquone del water. Come nei film, nei film lo fanno tutti. Ma c'è una scena del Padrino famosissima dove lui... Nei film lo fanno tutti, quindi è vero. Se nel film succede, è vero. Certo, assolutamente. Tra le altre cose, domani ci sarà sciopero generale, ricordiamolo. Questo è visto, insomma, un passaggio importante, comunque, anche perché, insomma, mi sembra di capire, però correggetemi se sbaglio, che il sindacalismo di base è finalmente tutto unito, e anche questo già di per sé è una notizia. Perché a Milano concentramento da Largo Cairoli alle 9.30 a Largo Cairoli domani, sciopero generale 20 maggio, lo diciamo perché qualcuno magari ascolta e va l'indomani. Comunque andate, anche se ci state ascoltando tipo a metà giugno, esatto. Domani andate. Fate finta di andare alla Decathlon. 9.30, se ci state ascoltando in tanti, magari vi beccate tutti lì. Può essere, sarebbe bellissimo. Chi lo sarebbe sa. Bellissimo. Chi lo sa, potrebbe essere. E... tu, caro, vuoi aggiungere qualcosa, Fulvio? Perché sennò io a un certo punto interromperei parlato per mettere un musichino e no, poi tornerei. Facciamo ascoltare un po' di musica. No, adesso al di là degli scherzi, no, credo che, ecco, sì, dall'intervento di Ema si evince anche il lavoro eccezionale che Marx Media fa, no? Sinceramente notevole, lo dico notevole, perché notevole. Insomma voglio dire, ma che marchetta, ma che marchetta, ma poi avete sentito che parole usa, ma che marchetta pazzesco, sì, ruffia, si può dire ruffia, ci marchettiamo un po' a vicenda. Cioè, bello, mi piace questo momento spot, un po' d'amore spot. Adesso un po' con d'amore. La musica togliamo per i microfoni e qua ci sarà l'amore per la vostra coscienza. Cosa mettiamo per esatto. Invece per mezzi litri e canzoni mettiamo contattate la banda Bassotti, direi, a questo esatto, punto. Esatto. Io adesso cliccherò... È uscito da poco il nuovo album. Infatti, io adesso cliccherò play e nel giro di poco verremo trasportati in questa cosa. Aggiungo che poi poco dopo torniamo comunque, quindi insomma se potete rimanere qui da noi, sì. Ecco. Esattamente. Non ci dispiacerebbe. In questo mare di guai, grandi uomini a galla, escrementi e famiglie potenti non affondano mai. Così tutti sai che non puoi fermarti a pensare, è giunta l'ora di andare. Siamo. Aug. Eccoci. E questa era la banda Bassotti, mezzi litri canzoni, di questa mini playlist che è stata selezionata a combo Zambara Onda. La selecta. Mark Spedia ci ha messo le parole difficili e noi abbiamo messo la nostra... Ognuno le sue competenze, esatto. Insomma, giusto così, credo. No, non è vero, abbiamo selezionato 3/4/5 canzoni a seconda dei punti di vista. Noi facciamo glottologia comunista. Ma esatto. No, allora, io in realtà volevo fare un'altra domanda che, di nuovo, un filino si incastra in quello che stavamo dicendo, ma che secondo me poi apre anche un po' di ragionamenti rispetto alla domanda ancora dopo, quindi... La metto un po' morbida, ma la metto lì, nel senso che abbiamo visto un crescendo, diciamo, e un intensificarsi di questi episodi, e dicevamo prima che la cronaca ne racconta e non ne racconta, tendenzialmente non ne racconta, quando proprio non riesce a parlarne lo fa comunque mettendola un po' sulla cronaca e quindi derubricando un pochino tutto in termini di scontri. E quindi a questo punto la domanda è appunto come viene gestita, diciamo, l'informazione, e quindi quanto, per esempio, nel senso che io guardando un pochino, poi cercando di approfondire il testo, mi sono resa conto che veramente le uniche informazioni a disposizione sono come dire, o quelle che arrivano direttamente dai sindacati, o tutti quei, e secondo me è abbastanza significativo, ci sono tutta una serie di video anche di tutte queste situazioni di cui parlavamo prima, e effettivamente sono tutti video che arrivano da quelle piattaforme che non richiedono nessun tipo di commento, cioè nessuno di questi video ha un audio, sono un cioè se non l'audio registrato live, ma come dire, non c'è un commento, e viceversa appunto nei casi in cui non si riesce proprio a non parlarne se ne parla in un determinato modo. E quindi un po' la domanda, la riflessione un po' su questo, no? Cioè come sfonda o non sfonda la notizia e perché. E anticipo già, insomma, che la domanda successiva aprirà un pochino più di margine rispetto a parallelismi che sono già stati tirati in ballo, quindi rispetto a fascismi, non fascismi. In questo caso invece vorrei parlare un pochino più di istituzioni, forse, quindi di media, e quindi basta, non so se mi sono spiegata molto. Allora, io dallo sguardo di Emanuele già vedo che avremo delle cose da dire tutte e due, secondo me. E, no, a me allora, in realtà un po' di cose sono già emerse. A me la prima roba che viene in mente da aggiungere è il ruolo di quello che è il principale sindacato del paese, che secondo me è fondamentale in questo, cioè come dire... nella domanda, rispetto alla domanda che fai tu, no? Cioè, nel senso che io non mi aspetto granché d'altro dall'informazione, no? Cioè, come dire, l'informazione mainstream è pagata dai grossi interessi, dal capitale, insomma, dai grossi interessi del capitale, sia esso industriale, finanziario, Confindustria o non Confindustria, insomma, quello che è, ed è normale pensare che la stampa mainstream non morda la mano che la sfama, ecco, cioè, certo. No? Questo va da certo. Sé. Noi oggi in Italia abbiamo però la fortuna di avere uno dei più grandi sindacati occidentali, probabilmente ancora oggi, nonostante tutto, quello che a suo tempo fu il principale sindacato dal punto di numero di iscritti dell'Occidente, e che però non alza la voce, non alza la mano quando le aggressioni si perpetuano, che non porta solidarietà al sindacalismo di base, e che il sindacalismo di base ha le sue colpe. Adesso non voglio né fare, ecco, non voglio che le mie parole suonino come un attacco senza criterio alla CGIL, né una partigianeria nei confronti del sindacalismo di base. Ecco, ognuno ha le sue responsabilità, però sicuramente la CGIL ha ancora, e appunto l'ha dimostrato con la risposta all'attacco alla Camera del Lavoro, ha ancora un portato popolare gigantesco, che però non utilizza. E non utilizza perché la concertazione, e quindi questo modo di fare il sindacato, viene considerato l'unico possibile, no? Mm-hmm. L'unico possibile sia dalla CGIL, CISL e UIL non le nomino neanche, sia da parte padronale. E quindi c'è una sorta di accordo rispetto al modo di fare il sindacato. E quando si esce da quel modo di fare sindacato, tutto entra nell'ombra, anche da parte di chi ha la maggioranza delle tessere sindacali di questo paese. E questo, secondo me, è un problema centrale rispetto all'incapacità di sfondare il muro mediatico che viene posto attorno alle lotte operaie. Non so cosa ne pensa Ema rispetto a questo, perché è proprio... È un tema da $1 milione. Partirei dalla stampa. È cambiato tanto il nostro modo di vedere queste vertenze. Cioè, adesso c'è YouTube, ci sono i social media, ci sono i social network. E, per esempio, Sicobas ha fatto tantissimi video di queste aggressioni, esatto, che sono infatti, anche su YouTube. Infatti. Una cosa che non era pensabile 20 o 30 anni fa. Uno potrebbe dire, vabbè, ma 20 o 30 anni fa la stampa di sinistra era più forte, ma comunque la copertura di quello che accadeva era molto diverso. Ma anche detto che, insomma, sono anche cambiati i rapporti politici. 20 o 30 anni fa non c'era questa logistica, non c'era questa distribuzione, quindi non c'era nemmeno questo genere di lotta. Viceversa, però, la grande stampa tratta le aggressioni secondo il criterio della notiziabilità, che è la prima cosa che insegnano in un master di giornalismo e anche in una redazione. Una notizia deve essere, scusate il gioco di parole, notiziabile. Perché le notizie sono come qualsiasi altra merce, come un acchiappa like, devono essere, sono da vendere come qualsiasi altra merce, come un barattolo di fagioli, un paio di scarpe, una bottiglia di birra. Il loro prezzo vale il lavoro che c'è dietro. E quindi di conseguenza è una notizia. Hanno pestato un lavoratore pakistano in uno sciopero, può valere un trafiletto. E magari, che ne so, della lotta della Whirlpool, per dire, nella stampa si parla soltanto per le dichiarazioni di due o tre funzionari sindacali, e delle passioni, delle sofferenze, dei dolori di quei lavoratori in sciopero non si dice assolutamente nulla. Così come quando il Corriere della Sera o Repubblica si appropria di uno di questi video di pestaggi, non parla di pestaggio, parla di tensioni, una parola neutra che non rappresenta lo stato reale delle cose. Mentre invece quando c'è la guerra in Ucraina c'è una nazione aggressore, una nazione aggredita. Invece quando, certo, i lavoratori vengono pestati non c'è mai un aggressore e un aggredito. Bello. Questo è il problema. Evidentemente d'improvviso la complessità, no? Non viene più presa in considerazione. Ora, questo è un aspetto secondo me centrale che va considerato. E apro una parentesi, però è importante, magari ne parliamo diciamo un po' nell'ultima parte della nostra chiacchierata, non lo so, però apre un compito anche per noi. Noi stiamo facendo della radio questa sera, esattamente come c'è tantissimo media attivismo nel movimento. Uno dei problemi di questo pestaggio, di questi pestaggi, uno dei problemi di fondo è l'isolamento di questi lavoratori, l'isolamento di queste lotte, e la possibilità di prevenire questi pestaggi sta nella rottura di questo isolamento. E tanta attività può essere fatta dal movimento, perché non si può pensare che dai lavoratori in sciopero possano farsi carico di tutto, anche della copertura mediatica della propria stessa lotta. Su quello che diceva Fulvio sul rapporto di un'altra grande istituzione, perché è trattata come un'istituzione, cioè la CGIL, potremmo dire anche CISL e UIL, ma in questo caso la CGIL, mi viene da dire alcune cose. La prima è che purtroppo ci sono dei settori nella logistica e nella distribuzione dove la CGIL ha fatto proprio il concetto di concertazione di sindacato dei servizi, cioè di sindacato che si sostituisce ai servizi che dovrebbe dare lo Stato, e quindi come tale finisce col firmare o con l'accettare dei contratti capestro in questi settori che spingono alla demoralizzazione dei lavoratori. Viceversa, abbiamo un rapporto ancora conflittuale, naturalmente, tra sindacati di base e sindacati confederali, che diventa mutuo. Per cui abbiamo i sindacati, il principale limite dei sindacati di base in questo momento potrebbe essere visto non solo dalla loro frammentazione, ma anche da una metodologia un po' ginnasta, e fare gli scioperi, se vogliamo, sì. Con una un po' insomma aritmetica di uno sciopero dopo l'altro, e mettiamoci anche un po' di linguaggio matematico via in questa trasmissione. E viceversa, però, abbiamo la CGIL, questa trasversalità ci commuove. Anzi, voglio dire una parola che anche quella va un po' di moda nella scuola, così, la transdisciplinarietà. Ah, ma è una cosa che dice da pronuncia. Non voglio cadere in questo sciogli lingua. Esatto, esatto. Dirla quattro volte. Riagomitolamelo. Viceversa, abbiamo la CGIL, un pachiderma gigantesco che, ripeto, gli devastano una camera del lavoro a Roma, in grado di convocare una manifestazione con centinaia di migliaia di persone a Roma, muovendo pullman, perché i treni speciali non si fanno più. No. Muovendo pullman come se niente fosse, con uno schiocco di dita in 48 ore, avrebbe realmente la possibilità di paralizzare questo paese, probabilmente. Non voglio esagerare, però avrebbero in potenzialità, perché c'è tanta rabbia sociale nel nostro paese e mobilita soltanto a compartimenti stagni. Il 30, se non sbaglio, c'è sciopero della scuola, ci si aspetta un'alta partecipazione perché c'è un malessere nella scuola enorme, però è uno sciopero convocato e annunciato un sacco di tempo prima, certo. E non è seguito da una strategia di lotta. Questo, e poi non sia mai che la scuola si possa in qualche modo legare, che ne so, al settore metalmeccanico, logistico, e quant'altro, come se gli studenti non fossero i lavoratori di domani. Ecco, e poi figuriamoci, sono i lavoratori di oggi, infatti, fanno l'alternanza scuola-lavoro, e li fanno rientrare anche nella casistica delle morti sul lavoro, ci possono rientrare a capofitto. Esatto, quindi come vedete in realtà è tutta un'evoluzione, cioè non più i lavoratori di domani, i lavoratori da adesso, e quindi meglio che non vi mettiate già d'accordo con quelli che sarete poi dopo, perché sennò diventa un po' un casino. Peraltro una roba che subito a me viene da notare dalla chiacchierata che stiamo facendo, Chiara ha fatto 3 domande, no? Sì. E già non so quante volte è venuta fuori la parola isolamento. Sì. Cioè, pensavo transdisciplinarietà. Questa è bellissima. Questa, me la segno, io non la dirò. Sappiate che io non la dirò perché non sono capace. Perché faccio radio. O al più una isolata transdisciplinarietà. Cascato, è il maledetto ponte tibetano delle parole. Sei cascato. Forse no, sì, isolamento tanto... comunque. No, no, isolamento, no? È venuto fuori quando parlavamo di movimento all'inizio. È venuto fuori quando abbiamo parlato adesso di informazione. Viene fuori quando parliamo di lotte operaie che non riescono o non vogliono essere collegate ad altre situazioni di lotte, di rivendicazione, insomma isolamento. Ma con la rabbia che c'è siamo davvero così isolati? A suo modo, ahimè sì, forse abbiamo tutte le potenzialità per non esserlo. Però lo siamo. Diciamo, cioè, fino a che non ce lo diciamo vicendevolmente, no, esatto, perché il condividere l'individuo isolato, cioè questa viviamo nella società dell'individualismo e quindi dell'isolamento individuale. Di certo, se guardiamo la geografia di queste aggressioni, ci rendiamo conto che ovviamente avvengono naturalmente nei momenti di maggiore vulnerabilità di questi presidi. Hanno una meccanica, se vogliamo, che si ripete, un copione che si ripete, avviene sempre nei momenti di maggiore vulnerabilità. Non avviene, come dire, spesso avvengono di pomeriggio o di mattina, quando, come dire, c'è il cambio, i picchetti, e c'è naturalmente è più difficile. Non avvengono mai, a differenza degli scontri con la celere, che ovviamente di solito avvengono quando c'è il punto maggiore apice, diciamo, della mobilitazione. In questo caso no, prendono singoli lavoratori quando non sono vere e proprie vendette, dove li vanno a prendere isolatamente, come il caso di Stezzano, per esempio, esattamente nel 2016. Invece, quando vanno al presidio, vanno quando sanno di avere poche persone. E qui si pone un problema, perché il movimento, noi che dovremmo aiutare questi lavoratori in lotta, eccetera, arriviamo sempre dopo. E infatti, secondo me, poi su questo ci arriviamo, nel senso che forse un po' il pacchettone finale è un po' rispetto al ruolo che ci spetta a noi, no? Io vi bloccherei ulteriormente per farvi la domanda che appunto avrebbe seguito questa, e cioè, visto che ne stiamo parlando e in una qualche maniera i ganci sono già stati fatti, cioè la mia domanda, diciamo che è anche uno degli aspetti che viene trattato nel vostro documento, secondo me in maniera, come dire, breve ma abbastanza efficace, è rispetto a, e un po' lo dicevi tu, è rispetto al fatto che, se è vero che come dire, fascismo oramai è un termine, forse un filo, cioè nella doppia direzione, no? Ci sono i puristi per cui il fascismo non può esistere dopo il 45, e poi un po' la buttata in cacciara dell'ultimo periodo, in cui più o meno qualsiasi cosa potenzialmente può essere etichettato come fascismo, quando è sicuramente in alcuni casi idiozia, in altri sicuramente prevaricazione. Però a questo punto, visto che si è parlato un po' di picchetti, di presenza o meno di fascisti, di che peraltro appunto per lo più mancano, anche se in alcuni casi nei contesti in cui sono state le guardie private, qualche tatuaggio suggeriva qualche amicizia, diciamo, abbastanza stretta con il mondo dell'estrema destra. Però in generale sicuramente uno degli aspetti interessanti è, a partire dal titolo, no? Cioè combatti oggi il fascismo di domani, quindi in una qualche maniera qualche forma di fascismo è già riconducibile a ognuno di questi episodi, o quantomeno il germe in qualche maniera è diversa, anche se ci sono delle ricorrenze che appunto vanno lette secondo me in una maniera, una su tutte, ma perché è quella che ha fatto più scalpore, e forse paradossalmente è stato anche un po' il momento in cui adesso stiamo vivendo questo, giusto per continuare a parlare di informazione, stiamo vivendo questo periodo in cui ogni cosa diventa un super dibattito, in cui le posizioni vengono assolutizzate, quindi o sei da una parte o sei dall'altra, e a suo modo questa assolutizzazione del contesto è avvenuto anche un po' durante l'attacco alla Camera del Lavoro, che è stato definito in molti modi, che sicuramente ricorda una pratica, come dire, ai noi già vissuta all'interno di questo Stato, ma viceversa il documento racconta anche che ci sono dei punti di, come dire, di difformità, no? Quindi non solo parallelismo, ma anche potenzialmente un po' di diversità. Vai Emma, vai. Temevo il vuoto in silenzio. Sì. Ma questo è un discorso un po' particolare. Questo, non è semplice, sì. È difficile, però buttata lì così, proviamo a scioglierla. Facendo finta di niente. Mettiamola così. Noi stiamo facendo della radio. Andiamo avanti le armate specializzate. Mettiamola così. Partiamo da un presupposto. Noi stiamo facendo della radio, in questo momento stiamo parlando liberamente, abbiamo prodotto questo materiale, non l'abbiamo dovuto fare in clandestinità, i sindacati ci sono ancora, il Parlamento c'è ancora, il fascismo non c'è, primo. Quindi se dobbiamo vederlo dal punto di vista teorico e politico generale, queste aggressioni a questi lavoratori non è fascismo, dal punto di vista squisitamente teorico. Il fascismo è la prevenzione militare contro le organizzazioni dei lavoratori. Il fascismo è la reazione ultima, è l'ultima carta nelle mani della classe dominante per prevenire la rivoluzione. Il fascismo è quella roba lì. Nel 1922 la marcia su Roma fu soltanto l'ultimo atto di un anno intero di grandi aggressioni alle camere del lavoro, alle sedi del Partito Socialista e del Partito Comunista d'Italia, perché all'epoca si chiamava ancora Partito Comunista d'Italia. Ma che veniva a seguito dal Biennio Rosso, insomma, certo, assolutamente, quale... esattamente, ma quel campo, quella possibilità, quella reazione, quelle aggressioni, quegli incendi, quei saccheggi, quei pestaggi, quegli omicidi, a partire da Matteotti in poi, e furono possibili per la sconfitta della rivoluzione in Italia del Biennio Rosso del 1919-20. La stagione dell'occupazione delle fabbriche del 1919-20. Lo sto dicendo con un tono un po' da Alberto Angela, tipo sì, ma che cos'è il comunismo? Però è importante, perché quella reazione aveva i piccoli proprietari, i piccoli contadini, i piccoli proprietari delle città, quella che si chiama, altro termine desueto, la piccola borghesia, che sta nel mezzo tra le due classi di cui parlavamo prima, che si oscilla sempre tra destra e sinistra, che lì si buttò fortemente a destra perché è delusa che il movimento operaio non fu in grado di spezzare giolitti e prendere potere. Ecco, quello è il fascismo, storicamente parlando. Queste aggressioni quindi non lo sono. Però è innegabile che sdoganare il fatto che si possa pestare un lavoratore in sciopero crea i presupposti per il fascismo. Quindi ancora non ce lo abbiamo oggi, però crea i presupposti del fascismo di domani. Lo sdogana. Se possiamo prendere a bastonato un lavoratore in sciopero in un magazzino che è sempre lontano dalla città, perché sono messi apposta lontano dalla città. Esatto, infatti anche la geografia tra l'altro spesso viene lasciata sullo sfondo, ma come dire, è una condizione materiale non indifferente, nel senso che anche quello che dicevamo prima sul fatto che si possa o meno intervenire quando come dire, i capannoni si trovano a distanza di chilometri già diventa complicato. Se li possiamo sprangare, li possiamo picchiare davanti a quei capannoni quando sono in sciopero, perché non domani non lo possiamo fare in un quartiere? Che ce lo impedisce? Questo è perché non possiamo organizzarci per farlo? È chiaro che a quel punto è tensione. Che cosa riporterà la stampa? Tensione. No? Quindi questo è il punto fondamentale. È violenza in quartiere. Tensione, rissa tra giovani. Come quando venne ammazzato Dax. Rissa tra gruppi antifa e militanti di estrema destra. I fascisti non si dice più. Non si dice nemmeno per il battaglione Azov in Ucraina che studiano Kant, no? Ce lo dice il Corriere della Sera. Certo. Ce lo dice Cremonesi, mi pare. Più del Corriere. Sono nazionalisti, sicuramente al più. Non, più. Come, non tutte, come tutte le persone sensibili fanno scelte estreme. Sono nazisti. No, io tu non sei abbastanza sensibile, evidentemente. Così, evidentemente no. Forse non sei abbastanza sensibile. Probabilmente no. Sei invidioso, che non sei una cosa sensibilità. Che ne pensi? Sei sensibile anche tu? Sei sensibile. Grande sensibilità. Grande sensibilità. Grande sensibilità. Grande sensibilità. E, sì, noi viviamo, diciamo, dei prodromi che possono essere utilizzati, dei virus, che stanno lì e attendono e sono in grado di attendere per anni, per decenni, e lo Stato, il capitale li tiene vivi, no? E possono essere poi utilizzati nel momento del bisogno. Ecco, questo è quello che sta succedendo. La geografia, tutto è politica, quindi anche la geografia è politica, no? Quindi dove vengono dislocati, ad esempio, i magazzini della logistica è politica. E oggi, come dire, al capitale, allo Stato e quant'altro non gli serve utilizzare quei germi per schiacciare il movimento operaio, perché il movimento operaio in questo momento è sfilacciato, è isolato, appunto, ancora una volta. E quindi non c'è un tessuto popolare, sociale, collettivo che possa davvero mettere in discussione il potere. E quindi chi determina il potere, chi si assume il potere e chi lo esercita. E quindi rimane lì. Delegano, diciamo, determinate pratiche alle guardie private, ai lavoratori ancora più, come dire, pauperizzati, disperati, eccetera. E non viene utilizzata direttamente l'arma del fascismo, che però c'è. Esiste, è nascosta, come dire, sotto il pastrano, ma è lì, pronta ad essere utilizzata. E quindi sì, insomma, ecco, tenere viva l'attenzione, questo lo dobbiamo fare perennemente, ma nello stesso tempo, come dire, non utilizzare termini alla cazzo e quindi definire fascismo quello che fascismo non lo è. Posso sottolineare che Fulvio ha usato prodromi pastrano e anche a cazzo, perché comunque cazzo. È uno del pueblo e quindi voleva sottolineare, esatto, che comunque tutto sommato. No, non voleva esagerare, esatto. Tutto sommato. Oh, raga, sì. Pauperizzati. Pauperizzati, è giusto, scusami. Scusate. Me lo no, perché allora io mi sono sentito un po' da meno nei vostri confronti, no? E quindi ho detto, adesso io almeno recupero, capito? hai fatto bene e li hai usati anche con grande destrezza, devo dire. Sì, no. Posso aggiungere solo una cosa? Certo. Sono d'accordo con quello che dice Fulvio, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che se guardiamo lo sciopero di domani, se guardiamo lo sciopero generale che aveva convocato la CGIL pochi mesi fa, non sono così certo che siamo di fronte a una classe lavoratrice così isolata, così atomizzata, ma ho più la sensazione che siamo di fronte a un movimento che viene mantenuto con il rubinetto col contagocce, sempre aperto e chiuso, che in realtà avrebbe maggiori potenzialità combattive di quelle che effettivamente gli fanno esprimere. Viceversa, non sono nemmeno così sicuro che i gruppi di estrema destra in Italia godano di così tanta buona salute in questo momento e che onestamente la classe dominante, chiamiamola così, la maggioranza dei partiti, diciamo, che compongono la classe dominante, e delle istituzioni anche della sicurezza italiana che compongono la classe dominante, come dire, non si appoggerebbe mai, come magari abbiamo visto in altri paesi, tipo in Grecia per esempio, non si appoggerebbe mai su queste formazioni se non ce ne fosse realmente bisogno. Ricordiamoci che comunque la democrazia è un modo molto più comodo di governare. Fammi però una battuta sulla Meloni data al 22%. Stanno ai sondaggi, che sono sondaggi, ok, però la Meloni è, insomma, è quella roba che ben sappiamo, no? Indubbiamente, però i sondaggi sono volatili, nel senso che in questo clima politico non c'è un'alternativa a sinistra, le elezioni diventano... e tutti sono nel governo Draghi. Tra l'altro, esatto, questo non è rilevante, sono quasi quindi tutti un paese dentro. In crisi, dove non è uscito vivo economicamente dalla pandemia. Ma la Meloni sinistra... è opposizione. La Meloni è opposizione, esatto. Guarda caso, infatti. Però appunto, c'è nel senso. Ma ti dico di più, la Meloni è opposizione, ma sull'invio delle armi in Ucraina è d'accordo. Se guardate i sondaggi contro la guerra, sono tutti frontalmente, sono abbondantemente contrari. Lì quel 22% alla Meloni non c'è. Eppure se guardiamo i sondaggi politici c'è il 22% alla Meloni. Questa contraddizione si spiega col fatto che manca una rappresentanza di classe della sinistra in Italia. Silenzio. Così, esatto, c'è stato un momento di silenzio, cioè, ma è stato quel silenzio assenso. Vero silenzio assenso. Vespa avrebbe mandato, esatto, inorridito avrebbe mandato la pubblicità. E infatti io non manderei la pubblicità. Io vi chiedo se avete delle altre cose da dire, se no mando un'altra canzoncella. Ci rivediamo fra poco con l'ultima domanda, che è quella difficile, quella da un milione di dollari. La domanda diplomatica della serata. Esatto, wow. E per farlo io metto questa traccia, che è quella che ho scelto io, ci terrei a sottolineare, e che è molto bella. Arriva sicuramente dalla decade scorsa, direi forse dal 2011, tipo una cosa del genere. Gente de Borgata, Operaio, pezzone, perché anche i rapper, nonostante quello che ci vogliono fare credere i mainstream, non parlano solo di droga e di donnine. Quindi, così. E quindi i buoni Supremo, Simo e Turco buttano fuori questa bombissima di traccia che Ema si sentirà in parte, perché momentaneamente si separa da noi, ma torna in tempo per il prossimo e finale blocco di parlato. Ci sei? Ci siamo? Sì. Big respect, vai. Va Chiara. Bene, vai. Dalla parte dell'operaio, carte false per esiste per da centaio, te state calmo e staccia un palmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio. Spacca l'opinione sto stile, né sciacca né cravatta né un copione da seguire, la gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno se non riesce a salire. Dalla parte dell'operaio, da una vita con la gente che va al contrario, aspettiamo il treno ma sdraiati sul binario, non famo torna i conti se non famo straordinario. Torno a casa che puzzo de fritto e m'attacco al cazzo se non pago l'affitto, afflitto un relitto nel mare, senza salvagente qua niente mi può salvare. Cosa vale, cosa non vale, non capire cosa fare qua è cosa normale. Spremuto fino all'osso non mi posso riposare, corro finché posso e ce lo sai che è regolare. Dalla parte del disperato che col sangue ancora paga i conti dello Stato, come un cane per il pane viene bastonato e continua fino a che non viene consumato. Dalla parte dell'operaio, carte false per esistere da scendaglio, restate calmo, restate Champalmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio. Spacca l'opinione sto stile, né giacca né cravatta né un copione da seguire, la gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno se non riesce a salire. Sveglia presto, le 7 convocata, appena al tempo dei ripiamme, 7:10 vado a Pia Limbrato, 7:15 arrampicato sull'americana, cambio passo programmato ben altra ammazzata, 20 metri sotto a me il cantiere prende vita, sotto al sole che te invita cambia proprio vita, con la gente cerca di una via d'uscita, so cosciente che tanto un aiuto non ci arriva, dalla parte dell'operaio, non da quella di chi parla steso su una straia, porto vasca se la ride mentre ne dà un paio, il giorno dopo in Parlamento vota un altro taglio, eh sì, dalla parte di chi se fa il culo, antilobby, anticassi, se ce n'è per nessuno, a testa bassa dritti contro un muro, non cambiamo puoi chiamarci lo zoccolo duro. Dalla parte dell'operaio, carte false per esistere da scentaglio, restate calmo, resta champalmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio. Spacca l'opinione sto stile, né giacca né cravatta né un copione da seguire, la gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno se non riesce a salire. Carico e scarico furgoni da quando esisto. Vado avanti e insisto, fine mese arriva presto. Mi piace o non mi piace, conta questo. Mi fa magna e me ce resto, il resto non fa testo. Dalla parte di chi esegue, non di chi comanda. Dalla parte di chi insegue una vita più calma. Io c'ho una testa da mantenere salva. Qui non c'è festa, c'è una società in gorda che plasma. Anime e vite, ammazza chi pensa. Mors tua vita mea come sentenza. Intanto un altro giorno avanza. Ancora chili e sudore per un tozzo di pane in panza. Operaio mod, resistenza. Operaio e stop, stop alla pazienza. Chi non ti aspetta, tocca spigna o tranza. Non c'è sosta, è un'altra giornata intensa. Dai, dai, muovemoci. Dai, regà. Dalla parte dell'operaio, carte pazze per il sistema da scentaglio. Estate calmo, resta sciampalmo. Non pensare che cambio, che tanto non cambio. Spacca l'opinione, sto stile. Né giacca né cravatta né un copione da seguire. La gente non sogna se non riesce a dormire. Rimane giù all'inferno se non riesce a salire. Ci siamo e adesso ci siamo effettivamente, spegniamo qua che sennò fa riverbero dappertutto. Questa era Gente Borgata, Operaio, molto bel pezzo. E a questo punto veniamo all'ultima, ma forse più succosa domanda, perché ci siamo detti un sacco di cose su, come dire, sulla situazione, sul contesto, su gli scioperanti, sui cattivi, sulle istituzioni, e quindi cattivi di nuovo, su tutti i cattivi di ogni tipo. A questo punto però la domanda è dove stiamo noi, dove staremo noi, dove dovremmo stare noi, fermo restando che lo dico a chi non ha letto il documento, ma per chi non l'avesse fatto c'è il link a vostra disposizione, leggetevelo sull'internet, posto che in realtà ovviamente siamo entrati un pochino più nel dettaglio di quello che trovate scritto lì, però effettivamente a un certo punto si fa giustamente una distinzione fra come dire autodifesa e solidarietà, quantomeno in termini di chi può fare cosa e quindi che cosa strategicamente è più intelligente fare. E quindi io a questo punto la domanda con cui chiudiamo questo super podcast è dove stiamo? Cosa facciamo? Ma cavoli, come vinciamo? Wow, come vinciamo? Soprattutto adesso, come vinciamo? Fulvio, mi rispondi su come vinciamo. Wow. Ma allora, no, io mi limiterò a rispondere. No, no. Non lo so. Allora, adesso mentre andava la canzone, Emma mi ha dato del pessimista. È vero, io farò. Sai che c'è sempre lo sbirro buono e lo sbirro cattivo, no? Allora, io sarò quello pessimista, invece. Non sbirro, per favore. Però, insomma, sarò quello pessimista e Emma quello ottimista. No, io. Mi limiterò a dire forse quello che potrebbe essere il nostro ruolo, non come vinciamo, ma io faccio parte dello spazio sociale, no? Io sto al CSA Barahonda. Bene. Allora, da militante di un centro sociale mi domando che cosa possiamo fare noi? Cioè, qual è il nostro ruolo? Ci stanno l'otto operaia, ci stanno i lavoratori che fanno il presidio, che fanno il picchetto, che magari passano nottate all'addiaccio, su marciapiede o queste robe qua, no? Noi cosa facciamo? Sicuramente quello che non dobbiamo fare, ma che a volte alcuni spazi, alcune realtà, eccetera, tendono a fare, questo è mortale, proprio mortale, credo che sia tentare di mettersi alla testa dalla lotta. Ecco, cioè, questo, parole sante. Cioè, dovrebbe essere scontato, però forse lo risottolineiamo così. Insomma, noi non siamo quelli che determinano le lotte, no? Stanno quelli che subiscono la violenza del capitale in questo caso, ma la violenza può essere anche la violenza, che so, di genere, per esempio, che no? Cioè, che determinano le lotte, no? Poi noi abbiamo un ruolo all'interno di queste lotte, che non è quello di determinarle, quindi non ci mettiamo alla testa. Io credo che il nostro ruolo sia quello sicuramente di portare della solidarietà, cioè quella solidarietà tipica, no, degli spazi sociali, che è una solidarietà materiale, no? Quindi noi portiamo il generatore per attivare, che ne so, delle casse per fare l'intervento, non lo so, portiamo le bombole alla cucina eccetera per farle da mangiare, portiamo i gazebi, portiamo le panche, delle situazioni così all'interno dei nostri spazi, organizziamo delle iniziative per attivare una cassa di resistenza operaia. E quindi insomma tutte le iniziative che vanno concretamente a sostenere la lotta. Però noi dovremmo avere anche un altro compito, che è quello di attivare delle connessioni, perché sennò che ci stiamo a fare? Cioè, perché noi all'interno dei nostri spazi sociali organizziamo concerti, che ne so? Perché all'interno dei nostri spazi sociali, la dico grossa, facciamo le brigate di solidarietà per il Covid, no? Cioè, a noi interessa fare la Caritas? A noi non interessa fare la Caritas, credo. Cioè, è importante e ha un valore politico di per sé, chiaramente, portare un pacco di cibo, di beni di prima necessità a delle famiglie in difficoltà, no? Però non può essere quello il fine. Quello deve essere un mezzo per costruire delle comunità. Torniamo al discorso delle comunità che i compagni di Zam hanno tirato fuori, no? Le comunità. E le comunità poi a che cosa servono, se non a generare delle connessioni che siano utili nel momento in cui si sviluppano delle lotte di classe. E quindi, cioè, le lotte operaie sono evidentemente le lotte di classe. Cioè, è lì che si, come dire, noi misuriamo il livello delle connessioni solidali che abbiamo costruito con anche ad esempio le palestre popolari, no? Le palestre popolari sono di per sé un importantissimo atto politico, perché salutiamo tutte le palestre popolari, tutte quante, esatto, e sono un atto importante perché permettono ai figli del proletariato di andare in una palestra non solo gratuitamente, ma dove si cercano di veicolare determinati valori attraverso lo sport. Però è funzionale, esattamente come le brigate, i concerti e tutto quello che uno spazio sociale fa, per costruire delle connessioni. Delle connessioni che poi devono essere spese nel momento in cui ci stanno delle operaie e degli operai che stanno prendendo le botte dalla polizia, stanno vedendosi negato il diritto fondamentale di avere un posto di lavoro, un reddito, stanno venendo menati dalle guardie private e hanno bisogno di vincerla sta battaglia. E allora quello è il al di là del valore materiale che gli spazi sociali sono in grado di mettere in campo, fondamentale, però è il livello più alto che noi non solo possiamo ma dobbiamo mettere in campo, se no viene meno la funzione stessa della nostra esistenza, mi viene da dire. Ecco, quindi questi sono i due fattori che da compagno militante di uno spazio sociale credo che debbano essere posti all'attenzione. Poi c'è chiaramente la questione dell'autodifesa, quindi dell'autodifesa in senso stretto, noi ne parliamo nel documento, no? Quindi la necessità dell'autodifesa, esattamente come si formano all'interno dei picchetti dei gruppi che hanno il compito di sostenere logisticamente il picchetto, di fare da mangiare o quant'altro, devono formarsi dei gruppi utili alla autodifesa del picchetto stesso. E questa è una funzione che sta a cavallo tra i lavoratori in senso stretto, che dettano la linea politica principalmente, e i solidali, che poi saremo noi. Ecco, a me viene da dire un po' queste cose qua. Poi lascio la parola super volentieri al compagno Evo. Ah, ma è fondamentale. Io questa cosa qui, nel senso che il compito di difendere una lotta è innanzitutto dei lavoratori che la promuovono, appunto, cioè quella è la cosa fondamentale. A loro spetta l'ultima decisione e la prima decisione da quel punto di vista. Cioè, però è un principio: tu devi lottare per il tuo posto di lavoro, per difendere la tua azienda, oppure per conquistare il contratto nazionale o perché venga applicato, probabilmente non puoi farti carico di tutta un'altra serie di faccende. E naturalmente il padronato questi strumenti li ha, paga qualcuno per occuparsi della tua sconfitta, certo. Mentre invece i lavoratori non possono pagare nessuno per come dire, per la propria vittoria. Allora il movimento da questo punto di vista, ha ragione Fulvio, è innanzitutto un sostegno di tipo materiale, però diciamolo, è anche un sostegno di tipo politico, per tante ragioni. La prima è che molte aziende e molti lavoratori che lottano imparano cos'è la lotta di classe quando cominciano a farla. Perché prima, solo quando sei costretto, la lotta di classe non è bella. Uno la fa perché è costretto, ma a nessuno piace scioperare, diciamocelo chiaramente, se non ci fosse bisogno saremmo tutti più contenti. Poi c'è un altro fattore. Naturalmente difendersi è un principio politico, non militare. E questo è una cosa che in realtà il movimento ha pagato per molto tempo, perché per molto tempo si è pensato il contrario. Però la realtà è che non ti picchiano se sei in tanti e se il presidio non è mai sguarnito. Se invece il presidio è sguarnito è più facile che ti picchino che ti minaccino. E quantomeno riduce le possibilità. E questo è un tabù che negli ultimi tempi non si è discusso, ma io porto due esempi che secondo me sono pratici per capire quello che voglio dire. La lotta della INSEE a Milano, che tra l'altro è uno dei, giusto perché prima dicevamo, adesso partono e ti ricordi di quella volta, esatto, che ti ricordi quella devo dire, ricordi che quell'agosto in rubattino, ampiamente uno delle memorie più vivide che ho dei, certo, miei primi periodi. Ti ricordi quell'agosto in rubattino? Madonna, di una decina d'anni fa, così sì, come sì, molto più recentemente la lotta di GKN. Entrambe queste lotte sono accomunate dal fatto che hanno avuto un comitato di sostegno dove tutte le realtà di movimento studentesco e di altri gruppi politici si sono coordinate e non hanno fatto ciascuno una cosa diversa, magari quasi competendo tra di loro, ma hanno sottomesso un pezzetto della propria sovranità e anche della propria autorità per il bene collettivo della vertenza sindacale. E quindi c'è chi si è più fatto carico delle questioni mediattivistiche, che si è più fatto carico di dare una mano con la vigilanza dei turni, quindi delle questioni di protezione, a dare una mano ai lavoratori, chi si è fatto carico di mettersi una cucina, chi si è fatto carico di fare il centro stampa, chi si è fatto carico di questo. E poi anche di coordinare tutto questo, perché è una cosa fondamentale. Ecco, allora in questo senso sì, si rompe l'isolamento della lotta, e se si rompe l'isolamento della lotta, la lotta è protetta. Perché è un principio che noi lo concludiamo, diciamo, questo nostro lavoro proprio su questo, e lo scriviamo per esteso. Posso leggerlo? Vai, assolutamente. Sono solo le ultime righe. Dice: per questo la priorità per il movimento è sempre quella di allargare il campo di lotta. Questo è il primo antidoto alla repressione. In fondo, una città, una regione o un paese che solidarizza, anche scioperando, con un'avvertenza, non è solo una bastonata al cane aizzato contro i lavoratori, ma anche alla mano che ne impugna il guinzaglio. Cioè, quello che intendiamo dire è che lo scopo principale, per voi far vincere una vertenza, qualcun altro deve scioperare. Non puoi essere da solo. Ma se qualcun altro sciopererà è perché c'è una comunità attorno che fa pressioni al sindacato perché convochi lo sciopero. E contemporaneamente protegge il presidio, gli crea una cintura attorno e lo fa conoscere nelle altre zone. E ne rompe l'isolamento in questo senso, sì. Questo sì che previene la repressione. Questo secondo me è il compito di questa domanda da $1 milione. La domanda da $1 milione. Non è una ricetta per la vittoria, però, come dire, sono le armi che abbiamo a nostra disposizione queste. No, ma io sono assolutamente d'accordo, infatti adesso poi l'ultima parola ovviamente la lascio a voi. Volevo aggiungere due robe giusto perché mi sono venute in mente così estemporaneamente mentre parlavate. La prima è che evidentemente, adesso arriva il momento veniale, perché tu dicevi giustamente, perché un presidio più è grosso meno ha probabilità di essere come dire asfaltato dalle forze dell'ordine, e viceversa in realtà è effettivamente quello che ci stava raccontando la narrazione di prima, no? Del fatto che comunque ognuno di questi avvenimenti di cui abbiamo parlato sono arrivati nei momenti di maggiore, come dire, in cui è più sguarnito, certo. E quindi sicuramente da una parte come dire questa cosa raccoglie un po' quello che stavate dicendo voi, cioè che effettivamente al netto di tutto, di ognuna di queste lotte, non ci si può, come dire, ci si può prendere un pezzettino di carico, ma è evidente che non ci si possa come dire sovrapporre e mettere da parte, un po' perché politicamente è una follia, un po' anche perché effettivamente la presenza, come dire, se la presenza sui territori la fanno le persone che li abitano, e viceversa i picchetti dei lavoratori li fanno i lavoratori che ci lavorano. È altrettanto vero anche che, come dire, esistono, adesso non lo so perché non ho seguito benissimo tutti gli svolgimenti penali di tutte queste cose di cui abbiamo parlato, ma se è vero che dicevamo che raramente o anzi mai al momento quelli che hanno attaccato e come dire colpito i lavoratori in sciopero non hanno mai avuto dei provvedimenti di alcun genere. Sono piuttosto certa che invece di provvedimenti, come dire, per picchetti, resistenze eccetera eccetera, ne arrivino uno via l'altro, e che obiettivamente è una pratica ai noi come dire forse un po' più desueta, ma solo per debolezza al momento, è sicuramente quello che non ha visto. No, non tanto perché sia centrale, ma perché non l'abbiamo citato fra gli altri strumenti, è quello della cassa di resistenza, nel senso che avere le spalle coperte quando la repressione arriva sotto forma di anche solo di ammende, evidentemente, come dire, fa sentire un po' più al sicuro e quindi un po' più liberi anche di lottare per le proprie cose. Quindi, come dire, ben venga ovviamente la presenza, ma come dire la presenza si può creare in mille modi diversi, no? E dall'altro forse la più grossa restituzione è che, se è vero che in quel contesto lì, in quell'istante lì, magari non possiamo esserci perché come dire sono posti lontani, ognuno ha i propri lavori eccetera eccetera, e quindi è difficile magari intervenire nel giro di propri 5 minuti da quando viene divulgata la notizia di un potenziale attacco, viceversa l'esercizio che abbiamo, penso un po' tutti noi, anche cercato di fare nel corso del tempo, è di cercare di inseguire sempre meno il calendario. E questo vale, noi almeno a Zama, è un discorso che ci siamo fatti un milione di volte, cioè è un po' quello di spezzare l'inseguimento di un calendario altrui per invece dare una continuità, no? E la continuità effettivamente è forse la cosa che ha ancora più, che ci restituisce, no, un po' il ruolo maggiore, ed è quello di appunto di spezzare l'isolamento, di condividere, di rappresentare degli spazi sicuri in cui condividere queste esperienze, quando non addirittura appunto provare a rilanciarle in momenti di costruzione pubblica e evidentemente come dire costruire delle mobilitazioni che, al netto del singolo evento in quella mezza ora di mezza giornata in cui magari nessuno di noi potenzialmente avrebbe potuto essere lì, vuol dire anche creare un progetto per noi e per tutti quanti, a partire dai lavoratori, come dire, di più lungo spettro e anche un po' più di grande respiro, che per tornare all'inizio di quello che dicevamo, è anche un po' quello che ti permette di buttarti con forse un pochino più di energia, nel senso che, visto che adesso facciamo la parte dei pessimisti e degli ottimisti, però è vero, obiettivamente è un po' quello della continuità, secondo me, senza voler essere né troppo entusiasti né troppo nichilisti, è quello che ti dà un pochino più di forza, no? Di struttura, in un momento in cui forse di struttura è tutto sotto. Adesso guarda, prima volevo mettere il lino sovietico e invece mi si è perso, MXXX mi ha boicottato. Volevo fare partire, però invece niente. E quindi lo cantiamo tutti. La cantiamo oppure possiamo cantare. No, non volevo chiudere io, in realtà. Volevo mettere a disposizione questi pezzi in più. Noi abbiamo provato a scrivere un materiale che poi, tra l'altro, è un materiale molto breve, nel senso che è pensato per essere agile, per aprire una discussione, soprattutto nei principali settori del movimento a Milano, nei principali spazi, perché una delle cose che abbiamo cercato di sottolineare è che di fronte a questo è necessario coordinarsi. Ciascuno spazio ha una specificità propria e può mettere risorse proprie, però ci sono dei principi per i quali la coordinazione diventa essenziale. Quando c'è una mobilitazione sindacale, la difesa di un posto di lavoro è più semplice, perché il magazzino, la fabbrica accentrano, non disperdono, quindi di conseguenza ti costringono a dire ok, spazio Brown, spazio ZAM, spazio Cantiere, spazio non lo so, insomma, perché sono i principali spazi di Milano, ora io metto questo pezzo, voi mettete questo pezzo e tu metti quest'altro pezzo e lo coordiniamo insieme per ottenere un unico scopo. Questo secondo me è il primo passo per fare veramente un sostegno efficace, secondo noi, scusatemi, un sostegno efficace alle lotte che ci saranno. Oggi noi parliamo di logistica, di magazzino, ma magari domani avremo lotte di supermercati, penso, certo, a Milano, no? Di grande distribuzione. Certo, certo. Sì, sì, al contempo mi viene da dire abituiamoci anche però al coordinamento. Cioè, esatto, nel senso educhiamoci che al coordinamento. Ecco, educhiamoci, cioè, è evidente che quando, come dire, noi non è la confederazione delle comunità. Sì. È lo step 2, allora, caro noi, mio. Noi non siamo il movimento. Il movimento non lo fanno le classi lavoratrici che si muovono, no? Cioè, come dire. Però, e quindi va bene, a volte il coordinamento nasce sull'onda delle necessità estemporanee di una lotta che ti porta effettivamente a dei bisogni concreti. Però se ci educhiamo al coordinamento, ci aiutiamo e aiutiamo, come dire, la classe di cui noi stessi facciamo parte. Quindi pratichiamola, ricominciamo a praticarla questa cosa. Rispetto alla questione chiaramente invece venale delle casse di solidarietà, credo che questo possa essere un altro degli elementi da tenere sempre presente per tutti i compagni e le compagne che fanno parte degli spazi sociali. La lotta costa. La lotta costa. Quindi le nostre... Come scrivono i compagni di GTA, la lotta paga ma costa anche. Quindi cacciate i crani. Cacciate i crani. Ecco. Oppure solo la lotta, virgola, paga. Esatto. Questa cosa è importante. Bellissima, esatto. Bellissima. Esatto. Dobbiamo ringraziare Chiara, grazie di averci ospitato. È stato molto bello. E tutti i compagni è stato molto bello, lo rifacciamo domani quindi. Va bene, ok, sì. Allora domani. Ci ritrovate domani. Quindi siamo quei bravi compagni. Siete... Esatto, niente, io a questo punto saluterei, rimanderei a presto per il podcast che avrete a breve in tutti i vostri store. No, non è vero, non negli store, perché a noi non ce ne frega niente, esatto. Però già li avrete sui nostri soliti acchittaggi e archiviamenti di podcast, che sono uno sul sito e l'altro di Zam e l'altro su una gloriosa piattaforma Copyleft, che invito tutti a sbirciare e a esplorare, che è archive.org. E niente, a questo punto noi salutiamo, io saluto, tu e saluti, noi ricambiamo, esatto. Grazie. Dai. E ci sentiamo le ultime due canzoni che arrivano da da due artisti amici. La prima è Contropotere dei Sempre Peggio, raccomandiamo tanti baci, molti baci a artisti e rispettiva pargolanza. Chiara, ascolta, visto che hai nominato Sempre Peggio, ma io una marchettata posso fare. Vai. Cioè, posso dire che dal 2 al 5... Ma certo, Madonna, certo, ecco, esatto. Allora, iniziamo con l'elenco delle cose prossime. Domani, che è il 20... Sì, c'è il lo sciopero. Lo sciopero generale. Ne abbiamo parlato a lungo. 9.30 a Largo Cairoli. Oh, perfetto. Mi raccomando, è un domani che non vale per i podcast, è un domani per la diretta. O se volete anche per i podcast. Venerdì 20 maggio. E poi invece, proseguendo, volendo, io ne metto un altro, giusto perché abbiamo benefit 130.000 il 28 di maggio qua a Zam. E insomma, siccome quest'anno non siamo riusciti a farlo a marzo, abbiamo tentato di farlo lo stesso. Ci sarà un po' di rap e un po' di trash. Lo dico per tutti, benefit 130.000, giusto perché parlavamo del 16 marzo, è sempre un'ottima occasione per, visto che parlavamo appunto di grano che va cacciato, mi raccomando, non lasciamo i compagni e le compagne da solo. E dopodiché, dal 2 al 5 di giugno al Baronda, così facciamo una smarmellata enorme, esageriamo proprio perché... Rifaremo le facciate dello spazio insieme ai Volkswriter. Faremo una fiera che l'abbiamo chiamata l'Indecorosa, la fiera delle comunità future. Yeah. Sarà una fiera delle autoproduzioni, prendendo tutto il parcheggio adiacente, insomma, allo spazio. Potrete incontrare anche noi di Marxpedia. Ci saranno i compagni di Marxpedia presenti con un banchetto. I glottologi marxisti. E quindi se volete parlare con Emanuele, se volete dire pedissequamente, potete farlo con Emanuele. Dei desueti radicali. Perché oggi non l'abbiamo ancora detto, no. E allora lo dico io. Pedissequamente potete parlare dei desueti radicali. Esatto. All'interno dello spazio stiamo organizzando una Tattoo Circo insieme ai compagni della Sharp. La faccia, niente di meno. Esatto, ci saranno concerti big concerti sabato, in particolar modo con appunto Sempre Peggio, di SA Commando, un botto di altre band. Insomma, vabbè, venite a trovarci. Ricchi premi e cotillon. Esatto, ho fatto la mia. Molto bello, no? Cioè, abbiamo detto che bisogna rompere il risolamento, quindi evidentemente bisogna anche andare e, come dire, ascoltare, ma anche poi chiacchierare e farlo. In tutti abbraccio in, con esatto, contro in la retorica abbraccio. Del ponte al mare andiamo al Barauni. Ma chi ha mai visto un giorno festivo? Io sono anni che non mi ricordo come sono fatti. E niente, quindi a questo punto chiudiamo per l'appunto con Sempre Peggio, con Contropotere, e visto che parlavamo dei compagni di GTA, chiudiamo anche subito dopo con una traccia nuovamente rap, questa volta di Teia, quindi un compagno a noi molto vicino, con la sua traccia che in punta di fioretto si chiama Comunista. E quindi qui siamo, qui ci salutiamo. A questo punto noi facciamo le ultime cose per non lasciare buchi alla fine, perché sennò si sente che sono un po' di giorni che non vengo in radio, che non sono sicura di come si fa. E a questo punto che ci siamo, salutiamo tutti. Ciao ciao, e ci vediamo presto. E hasta sempre. Sarà prestissimo la prossima, sono sicura. La NATO con i droni, merde. Vediamo rosso come i tori. Abbiamo gli altri lavoratori, non quelli coi soldi, fra come Batman e Robin. Il mondo bomba, il po' di merda, sono tutti tristi, non i comunisti. Vediamo lungo, c'è il sole sotto stecchissi, ma il mondo non cambia se stai lì fermo e lo fissi. Se anche tu pensi che non va niente bene, fra loro dati da fare, c'è chi muore di fame, c'è chi perde il lavoro, c'è la guerra nucleare, ma niente conta per loro, fra conta soltanto l'oro, quello nuovo che puoi fargli fare. I comunisti sanno come fare, sanno come fare, sanno cosa fare. Ancora fischia il vento, ordine e marciare, dobbiamo cambiare l'ordine sociale. I comunisti sanno come fare. I comunisti, i borghesi hanno ancora il terrore dall'ultima volta che gli hanno visto in testa alla rivolta, okay. E se perdiamo risorgiamo ogni volta come Cristi dalla grotta, okay. C'è la crisi, fonda che non si tocca, e tu perdi il lavoro, la paga la casa, paga solo la lotta. Il capitalismo è una porta che si apre solo per chi importa e si regge su chi sopporta. C'è chi succhia dalla mammella, chi lavora dalle 8 alle 8 sempre sbattella, che entra in banca non ha il conto, conto su una rivoltella. I comunisti, i comunisti, finché non cambia tutto sta merda, hey. E lo so che abbiamo provato e perso, vabbè. Ma riproviamoci adesso, sì, e se dici la fai facile è un po' più complesso. Allora quando parlo non mi stai appresso, perché ho detto bro, i comunisti sanno come fare, sanno come fare, sanno cosa fare. Ancora fischia il vento, ordine e marciare, dobbiamo cambiare l'ordine sociale. I comunisti sanno come fare. Tu